Ah, stiamo smontando un pezzo. Potremmo fare... Non rende quasi più niente, ma sai, e distinto servi e padroni sta diventando ladroni. Non si distinguono, si etizzano. Dov'è il portafoglio? Qui al supermercato, dai grande avvocato. Dov'è il portafoglio? Sono un monello, apro il cancello, sparite le mine. Ladri, distrago il barista, gira la testa, che cucchi. Ladri, ladri, ci cercano. Ladri, ci seguono. Ladri, dei nostri risparmi. Ladri, ci cercano. Ladri, ci seguono. Ladri, dei nostri risparmi. Sparisce la radio, ladri, distraggo il barista, gira la testa, e cucchini, ladri, ladri ci cercano, ladri ci seguono, ladri dei nostri risparmi, ladri ci seguono, ladri ci cercano, ladri dei nostri risparmi.